crescono erbacce, tipiche delle piante grasse, hanno creato l'ambiente ottimale, l'ambiente ottimale. No, non è, queste piante là non si capisce. Qui ti fa vedere qualcosa. Per esempio.